essere e avere. I vecchi sulle panchine. Eh no, niente più panchine. I vecchi, così cantava Claudio Baglioni, dagli anni Ottanta di strada ne hanno fatta tanta. Di nuovo in studio con Essere e Avere per il focus sui trend. Parliamo di potere grigio, un'espressione con cui vogliamo indicare il protagonismo degli ultra sessantenni nel mondo dei consumi. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, bentornata. Grazie, bentrovati. Il 2012 è l'anno europeo dell'invecchiamento attivo, fuori moda parlare di terza età. I nuovi anziani, quelli della Silver o Golden Age a seconda delle definizioni, arrivano ormai tranquillamente fino alla quarta. E così è boom dei testimonial maturi per pubblicità di prodotti e servizi che si rivolgono a questa categoria forte di consumatori, anche da settori fino a poco tempo fa impensabili come il fitness, i viaggi, la tecnologia. Patrizia. Il futuro dei mercati possiamo dire che è grigio, il colore dell'invecchiamento della popolazione, il colore della terza o quarta età, appunto quella dei cosiddetti grandi anziani, cioè over 80. Secondo le stime delle Nazioni Unite, il numero di persone con più di 65 anni passerà dai 523 milioni del 2010 a 1,5 miliardi entro il 2050. Per la prima volta nella storia, gli over 65 supereranno così la popolazione mondiale al di sotto dei 5 anni di età. Già oggi un italiano su 5 ha più di 65 anni e entro il 2050 saranno più di 34 milioni. Nel 2030 i nonni quindi saranno il doppio dei bambini. Gioco forza prevedere prodotti, servizi, progetti architettonici, urbanistici, culturali a misura di anziani, compresi i nuovi modi di impiegare la loro ultima creatività. Infatti l'età senile significa sì fragilità, dipendenza, patologie fisiche, acciacchi, ma anche nuovi neuroni, attività intellettuale vivace, tempo libero, voglia di vivere, sperimentare e potere d'acquisto. Potere d'acquisto che in certi casi, come dicono i dati resi noti proprio recentemente con riferimento alla Lombardia, è superiore a quello dei giovani occupati. Un target di consumatori, quello dei nuovi anziani, molto interessante appunto per potere di spesa, quantità di tempo libero e indipendenza. Un'età di cui non vergognarsi, anzi sempre più celebrata dalla pubblicità con celebrity come Sharon Stone, che è over 50 ed è testimonial dei cosmetici Dior. Si dice più bella oggi che a 20 anni, questo è il claim, ma anche con donne anziane comuni come la testimonial della campagna stampa di Marlboro Classic, lunga treccia bianca, camicia a scacchi, jeans vicino a una sella appoggiata su una staccionata, e il claim: ho visto i miei figli e i miei nipoti imparare a cavalcare.